circa, però bene o male riesce a passare, dai. Ok, e qua qualche volta in più si può dare, dai, aspetta un attimino che vedo se quanto può salire. Dai, vabbè, dai, una cinquantina. Ah, ecco perché sei salito di brutto, sei tipo 9 più 15, circa 9 più 15, dai. È molto bella la modulazione anche in FM, è molto molto bella. Poco fa hai nominato i canali alfa, però questo non ce li ha, questo è 40 canali omologati. Non c'è propagazione, si va sugli alfa, è tutto silenzioso. Ormai spero che basta un pochettino, magari non ce n'è bisogno. Di far scaldare qua inutilmente, questa specie di ferro, vediamo così. Tanto in FM se ne va, la modulazione si apre e modula meglio, dai. Guarda un po' così. Buono, buono. Allora, alle volte anche sui canali alfa vanno, perché anche gli stranieri pensano tutti la stessa cosa, alla fine 3 alfa, 7 alfa, 11 alfa, 15, 19, quasi tutti occupati. Va bene. Benissimo. Adesso mi guardo questa antenna che vuol prendere Gianni, che ho già sentito nominare, vediamo cosa c'è. Buona. Prego. Gianfranco, avanti. Oh, basta. Basta la parola, come diceva quello. Buonasera. Eia, eia. Il break più signorile è il tuo. Via in avanti. Buonasera. Grazie. Buonasera a tutti, Gianfranco. Ti volevo chiedere, Marco, come segnale, come sono messo? Perché involontariamente, per altri motivi, ho toccato una cosa e adesso l'ho rimessa a posto, quindi è sempre lo stesso. Sembra di sì, sembra di sì. Qua sei 9:20 pieno, pieno, fidati, vabbè, cerca di fidarti di questo Smith, però a me sembri tu. Sempre tu di segnale, Gianfra. Io non ti ho mai visto crollare il segnale, mai. Anche quando avevi il dubbio, antenne, no, con dubbi. Ciao Gianfra. Ciao Michele, buonasera, ben ascoltato. Buonasera, ben ascoltato a te. Ogni 10 anni ci sentiamo. Come va? Qua stai arrivando benissimo, sempre qua, sì, 9:20. Non ti dico quello che mi segna in FM perché si incolla su, però stai arrivando benissimo. Io sono zona Pomponio, con un antennino di macchina dentro casa. Però sembri qua, sembri in questo quartiere. Sì, anche tu sei un 9:20, un R5, ma ricorda una cosa, prima eri a Platamono o sbaglio? Cioè la casa lì? Esatto, qua la casa dei miei, mi ero trasferito lì, ci sono stato un po' di anni, poi me ne sono ritornato a Sassari, però avevo anche lasciato un po' la radio, non stavo più modulando. Adesso sono sempre a Sassari, però sono a casa mia, però non c'ho antenne. Giusto per il Covid ho rispolverato un po' di roba che c'avevo chiusa negli scatoloni, non mi ricordavo più niente, quindi sto ancora rispolverando un po'. Avevo tempo per leggere, leggere le tele manuali, ho visto un po' le novità di questo periodo. Mi sono un po' dedicato alle reti SDR, quelle chiavettine USB che mi ricordo che anni fa tu avevi provato. Magari ti faccio anche qualche domanda, dato che qualche cosa l'ho imparata, ma non tutto. Non so se ti ricordi quando parlavamo, mi dicevi che ascoltavi le DAB, le radio DAB. Io ci ho provato, ma non ci sono riuscito. Ho provato a usare il programmino che ti fa da scheda audio virtuale, qualche programmino che demodulava, ma forse non c'avevo le antenne adatte, boh, ci sono anche poche radio forse che trasmettono in DAB. Beh, vabbè, comunque un bel mondo. Ho trovato un sacco di radio SDR online, molto molto valide, per cui molte volte piuttosto che ascoltare la colonia radio ascolto direttamente su internet, dato che hanno antenne e postazioni eccellenti. E nulla, dai, questi 2 mesi di chiuso in casa, qualche cosa l'ho fatta. Vai ancora, già. Sì, sì, sì, allora, non mi ricordo male, mi ricordo che ti accompagnavamo quasi ogni sera, quando scendevi, che si chiama Vittorio, se non ricordo male. E così, come passa il tempo, caso sembrano 10 anni, sono 10 anni forse. Sì, no, io li sto utilizzando ancora, gli SDR, ci ho dovuto anche mettere a mano, perché sono stato ingannato proprio causa questo virus, perché ho acceso il radar e mi sono accorto che non funzionava, cioè non funzionava, non funzionava, non c'erano aerei, e io ho pensato, cacchio, di nuovo mi si è guastato il radar, qualche scarica, sai, sui cose finali. E quindi non ho neanche pensato minimamente che il traffico aereo era letteralmente crollato. Quindi ho detto, vediamo un po'. E mi sono acquistato la chiavetta lì della nave, che era molto scettico, perché il costo è talmente basso che ero veramente scettico. Però l'ho messa e subito ha ripreso a funzionare, ha fatto quello che faceva quello grande, né di più né di meno. Quindi quando ha passato qualche aereo ha detto, ma puntini, puntini, puntini. Comunque vabbè, è lì, costava poco e l'ho presa. E in più, per curiosità mia, ho tirato fuori anche quello che c'avevo, non so se sia vecchio, ma forse lo stanno ancora vendendo. RTL SDR, quindi gioco ancora con quello, anche se ovviamente per fare un ascolto su bande normali che non vanno oltre il giga utilizzano roba insomma un pochettino più seria, non che vadano male, però qua essendo vicino a Monte Oro certe stazioni che vanno a 1 kW, 10 kW in FM, c'è poco da stare tranquilli. Tutto lì. Riprendi Marco. Sì. Eccomi qua, sì, sto visionando l'antenna. Caspita, la bobina sembra uguale alla mia. La parte esterna della bobina, il guscio che copre la bobina. E vediamo, poi bisogna vedere che installazione vuole fare, se vuole usare base magnetica, se vuole forare il tetto, non credo. Oppure quelle basi Jean-Fas che usano gli americani, le chiamano trunk mount scritto. Certo, addirittura oltre che in orizzontale puoi mettere in verticale, in diagonale, cioè le puoi orientare in tutte e tre le direzioni. Io per esempio ne ho messa una a portiera, nella parte alta della portiera destra, anteriore destra, dove ci metto le antenne per ricevere, dove ricevevo l'HF, dove ricevevo la V e la U anche. Non ho capito a che tipo di antenna ti riferisci, però da macchina, che antenna sono? No, questa che mi ha detto Gianni è un'antenna CB veicolare, bisogna vedere appunto che montaggio vuole fare. Staffe ce n'è di tutti i tipi, la macchina è nuova, quindi credo non bucherà. Se no, vanno. Non ho voluto bucare io, che è un carraggio, c'ha 20 anni quella macchina, eppur si muove, va bene, riprende Michele, avanti. Sì, adesso approfitto per chiedere, allora, Franco, non so se conosci tu le antenne mini WIP, che molte volte vengono utilizzate con queste chiavette, proprio perché hanno una larga banda. Io ho l'opportunità di ascoltare alcune stazioni SDR che ci sono in rete, tra cui una che sta in Olanda, adesso non ti so dire esattamente, ce l'ho anche memorizzata qua sul cellulare, che a volte me l'ascolto anche dal cellulare. Allora, che radio è? Boh, vabbè. U20, la città si chiama U20, Olanda, e questa radio utilizza, a parte che ha un SDR fantastico, tutto artigianale, ultra ripreso, basta ascoltarla per vedere come funziona, la continua in HF, però con questa antennina che si chiama Mini WIP, che in pratica è un circuito stampato, cioè di antenna non c'è poco e niente, sono 10 cm di spezzone di cavo, in rete tutto circuito, un'antenna attiva, tira fuori dei segnali paurosi, ma non solo in HF nelle decametriche, ma giù nel 60 kHz, 40 kHz, 60 kHz, segnali pulitissimi. Hai mai avuto a che fare con queste antenne? Perché non le ho mai provate, però mi stavano incuriosendo parecchio. Sì, con le antenne amplificate sì. Diciamo che il fatto che non ricevano molti rumori non è che sia proprio una cosa positiva, perché purtroppo il rumore c'è, è una natura stessa, basta guardare oggi cosa c'è in giro. Diciamo un'antenna che veramente non riceve rumore, dopo perlomeno l'antenna ma moltissimo, sono le antenne loop, che anche quelle ci sono le versioni amplificate, su quelle sì, c'hanno un po' di direttività, quando hanno poi, quando no, vengono usate anche per la trasmissione, che quindi c'hanno un accordatore che le accorda, bisogna sempre ricordarsi di non mettersi davanti, perché quelle lì accendono il neo, sono forti, concentrano molta RF, quindi sono più pericolose delle antenne normali. Sì, diciamo che l'SRDR si distingue in due categorie, quelli economici e quelli molto costosi. Io ne ho uno che è costoso, anche qua il sicuramente lo conosci, il Lumen Radio, che è usato anche per scopi professionali, e ho visto che sta ancora andando e hanno uno spettro da paura, per quello che quando mi lamento con la radio di qualcuno e dico guarda stai attento, perché su quello ti appaiono anche le occupazioni di banda, quindi quando fai il segnale che si ripete tante volte, evidentemente la lavorazione sta andando oltre il 100%. Quindi sì, poi c'è anche, c'erano delle pennine, guarda, cinesi, comprate dai cinesi, avevo preso 3 o 4 per darle, che erano formidabili, erano già pronte all'uso, però onestamente sono passati tanti di quegli anni che non so neanche se ne è avanzata qualcuna. E io ne ho una, forse quella che avevi tu, la RTL CDR, aspetta come si chiama, la Blog, questa è la versione 3, mi sembra che rispetto alle vecchie, vabbè, avevano fatto qualche filtro in più, qualche filtrino c'è in più, però c'è il BIAS, o BIAS, non so come si legga, BIAS, che praticamente puoi attraverso il software attivargli la tensione, proprio con le antenne amplificate, e basta, fa da 0 a 2000. Porta dentro un sacco di mondezza ovviamente, perché non c'hanno filtri, quindi le broadcast li distruggono tutto. Sì, indubbiamente, guarda, oggi c'avevo su molte broadcast, sui 16, sui anche sotto, sui 7 compagnia cantante, S10, cioè l'ago del ricevitore andava a sbattere, ecco, quindi insomma segnaloni veramente che poi fanno immagine e tutte quelle cose su quel tipo di ricevitore, ovviamente miracoli non ne fa, ecco, anche perché stiamo parlando di roba a 10 euro. Quindi già incassano quelli grossi, figurati cosa succede a quelle. Poi se sei vicino, ripeto, a delle broadcasting te le trovi in mezzo a piedi anche in HF, purtroppo così. Adesso tipo questa che ho preso, che dalla radar box ci hanno messo il filtrino, l'amplificatore eccetera, e ho visto che non è abbastanza bene, quindi è ovvio che costa un po' di più. Riprendi Marco. Io vedo segnali che vanno e vengono, non so mai se sono in città oppure no. Ok, io comunque vi devo lasciare perché io non ho pranzato. Ho dovuto fare questa commissione via in altra sede, porca miseria. No, dovevo andare praticamente, sono andato a Florinas e speravo di sentire qualcuno lì in loco, no? Dovevo fare la commissione, poi c'è il baracchino, ma su lì c'era deserto, non c'era nessuno, c'era solo propagazione. Allora sono rientrato, diciamo a metà strada, ho sentito gente che iniziava a modulare sul 10. perché lì è in alto Florina, se ero curioso di sentire come arrivavano i segnali là. Saranno una ventina di chilometri, no, Gianfra? Linea d'aria, dico. Sì, da me è molto meno, è davanti. Ah, meno di 20 addirittura. Ok. E vabbè, proprio quando arrivo lì, niente segnali. C'era qualcuno, vabbè, sul 23 mi pare, però il 10 era vuoto, vabbè, perché... Ok, vado a mangiare, ci sei a far colazione, Gianfranco, come dici tu. Ci sentiamo le prossime. Ciao Gianfranco, ciao Michele, riprendi Michele. Ciao Marcoli, ben sentito, buona cena, buona carica. Ne sto un pochino anch'io. Ancora una mezz'oretta e poi anch'io devo andare. E niente, riprendi Franco. Quindi saluti. Sì, ciao Marco, allora buona colazione. Non esagerare, ho le brioche. Ok, ti dicevo, sì, lo sto provando, guarda, un programma che ho visto che puoi mettere vari plugin è Cosom, me lo dimentico sempre, SDR, aspetta, te lo dico subito, è un bagno di sangue questa storia, SDR Sharp, che nella versione completa, diciamo, di tutte le varie opzioni, c'è tutto, dove il tetra, il poi il pin-up ne metterà, tutta quella roba lì. E poi cosa c'è? Poi c'è anche un altro, se vuoi ascoltare il DAB, ad esempio, utilizza, che è molto molto bello, uno tedesco, un programma mio tedesco, è scritto WL.io, che è specifico per il digital radio broadcasting, cioè quello, il DAB più praticamente, che sostituirà, si spera quanto prima, il l'FM, quello per intenderci che lavora oltre ai 180 MHz, 180, 200 spiccioli. Li provo. Sharp l'ho letto ma non mi ricordo se l'ho provato. Li ho provati quasi tutti perché sul sito di RTL SDR ci sono, no? Tutti i software che funzionano con le chiavette e soprattutto con questa, che penso che sia la più comune, dovrebbe essere cinese anche questa. Sì. Comunque, cosa ti volevo dire? Si chiama websdr.org, dove ci sono molte stazioni che mettono a disposizione la radio, che in questi casi, essendo una radio che dà accesso a centinaia di utenti, utilizzano appunto l'SDR. In questo sito, l'Università di Twente, WebSDR at the University of Twente e Enschede, Netherlands, ed è l'unica tra tutte queste che va da 0,000, cioè dall'inizio della frequenza fino a 29, copertura continua, con questa antennina mini whip. Poi c'è scritto anche lo schema dell'antenna, un'antenna da 10 cm, una fesseria sicuramente ben messa su un palo. Se ci vai, se ci passi, prova a muovere col mouse, a muovere lo scanner e andartene intorno ai 60 kHz e vedi che segnali riesce a portare dentro. Cioè neanche con un HF e 200 metri di dipolo riesce a portare dentro questi segnali. Con questo cacchizzo di antenna invece sì, ma non solo lì, cioè praticamente porta segnali buoni ovunque, vai in HF e ascolti tutti gli OM degli 80, degli 70, dei 40, tutto con questa antennina. Peccato che non si possa usare per trasmettere, ma solo per ricevere, perché sarebbe proprio una buona rivelazione. Poco spazio, non te la butta giù il vento, peccato solo in ricezione, però funziona veramente bene. Poi vabbè, l'RTL che hanno loro è tutta una sorta di saldature, cose, si vede, ci è tutto spiegato come è fatto, chissà quale ingegnere l'ha modificato, tutto da zero. Se tu guardi ci sono gli user, in questo momento ce ne sono 325 connessi in questa stazione, cioè 325 sono tanti, tutti collegati a questo software. Io ho i 16 Sì, Guarda, io la penso ovviamente un po' diversamente, perché quelle lì magari sono stazioni messe dove non c'è un minimo di disturbo, poi mi hai già detto che c'è un ricevitore di tutto rispetto, anche se si è assemblato, però sicuramente avrà adottato tutte quelle procedure per far sì che siano evitati proprio le intermodulazioni e tutte queste belle cose. E tieni presente che quando parliamo di SDR stiamo parlando anche di una tecnologia applicata alle radio professionali e soprattutto militari, perché le permettono di applicare proprio vari software, compresi quelli di cripto, eccetera, eccetera. Quale trasmettono pure? Riguardo all'antenna, poi, ripeto, io ho un'antenna di 80 metri, riesco anche a ricevere, perlomeno, ricevevo i russi, diciamo, a 40, dove erano? A 40 kHz. Attualmente ricevo bene quasi tutto il bacino del Mediterraneo per quello che riguarda il Navtex, che come sai è a 490-518, e niente, però ripeto, i ricevitori sono abbastanza grossi, l'antenna è, insomma, 80 metri d'antenna ce ne sono due. Sono abbastanza performanti. Quelle lì penso che siano molto buone, diciamo, in considerazione del fatto che le onde medie non hai problemi di ostacoli, le onde lunghe non c'è problema di ostacoli, quindi praticamente si possono ascoltare molto bene anche con antenne inferrite, anche senza fare eccessive amplificazioni. Però, ripeto, mai dire mai, in antichità, cioè tra virgolette, utilizzavano i famosi telai in legno, no? La forma di rombo, te li ricordi? E ricevevano come. Poi però, tipo le trasmissioni, una a casa, quella che faceva il Titanic, c'aveva dei pali per reggere le antenne di trasmissione, che era qualcosa di poroso, altissime, con se ti guardi infatti il Titanic, oltre ai fumaioli, la cosa che spunta sono questi due pali veramente alti, figurati quanto sarà stato lungo, 200 metri, quindi figurati che quando tenevo 200 metri cosa facevano. L'alimentazione era tramite un quesore che sviluppava quelle scintille famose da un kilowatt, che sono molto armoniche, ma te immagini all'epoca avendo un ricevitore moderno quante armoniche, sottarmoniche e multipli di contromultipli ricevevi con una cosa del genere a scintilla, praticamente uno spinterocena. Sì, una cosa allucinante. Guarda che prima non c'erano motori, cioè c'erano pochi di disturbi elettrici nell'aria, penso, a parte i temporali, quindi è vero che avevano anche antenne molto economiche rispetto a quelle di adesso le hanno proprio provate tutte, però insomma chissà com'era veramente, come i primi astronomi quando osservavano il cielo, se c'è tutto questo inquinamento luminoso che c'è oggi, sicuramente è tutto un altro mondo. Comunque vacci su quella frequenza, ascolta, perché io sono rimasto veramente a bocca aperta. Sicuramente sì, dei ricevitori eccellenti, anche se SDR, cose fatte bene, bere bene, filtrati. E poi tra l'altro non ho capito con quelle frequenze per i sottomarini che cosa trasmettono, cioè ci sono questi segnali digitali, sembra non stiamo andando nulla, chissà cosa tutto esce invece. E di norma è messaggistica ovviamente super criptata, perché riesce a penetrare le profondità marine fino a un certo punto, e quindi un contatto radio, cioè penso che sia solo in ricezione, quindi ricevono gli ordini, poi alla prima occasione buttano fuori l'antennina satellitare e comunicano. Sì, infatti sicuramente è quello. Magari sì. Magari ci sono anche condizioni, ci sono informazioni di tutti i tipi, loro leggono, fanno e poi quando devono comunicare andranno via satellite con le missioni laser, no? Dipende, ci sono varie tecnologie, ma anche quelle classiche, super codificate, con anche protocolli proprietari, insomma ce n'è. E lì trasmettono, poi sai, la tecnologia è anche difficile da inseguire a volte, perché ognuno non può starci attaccato, soprattutto se c'è altre cose da fare, e quindi è in costante evoluzione. Esatto, no, non ci puoi stare dietro, e poi una volta che c'è di mezzo il digitale puoi fare quello che vuoi. E mi ricordo che tempo fa, a volte spaziando così da buone SVL, ogni tanto sentivo delle trasmissioni criptate tipo voice scrambler, ovviamente incomprensibili, passaggi brevi, alla fine avevano una sorta di ricodificatore che aveva una sorta di tone CTSS, dai, che praticamente ti dava il codice del prossimo passaggio, e sicuramente l'interlocutore si aggiornava, quindi impossibile da seguire. Mamma mia, quanto arriva forte questo tedesco. Sì, guarda, la stessa procedura si adotta, la trovi sugli 8 e 900, una cosa del genere, in cui c'è quella famosa stazione lì di Santa Maria, che è il punto intermedio, diciamo, per il congiungimento degli aerei tra l'Europa e gli Stati Uniti, oppure anche il Brasile, eccetera, eccetera. E quando chiamano praticamente gli aerei per contattare la torre, vengono chiamati con la selettiva, che si chiama Sorcal praticamente, no? Che è di TMF. Senti bi bi bi bi bi, e in cabina le squilla il campanello. Lei dice: siete, dateci la vostra posizione, avvicinamento, la rotta prevista e tutte quelle belle cose solite, no? E di lì funziona così. Poi ci sono quelli invece che, se noti sempre di più, danno la codifica in RTT oppure in CV e poi vanno col messaggio. Poi ci sono le altre che sono veramente difficili da ascoltare, perché vanno solo di portante, sempre di portante, e quindi il messaggio poi lo danno chissà quando, e sono quelle militari, quelle con i protocolli Stanag, eccetera, eccetera. E che sono un po' su tutte le frequenze, no? Se tu guardi l'analizzatore ti vedi una specie di panettone non troppo grande, ma anzi diciamo un terzo di quello di una radio digitale HF, che poi mi direi se mi ha ascoltato, e niente, è solo che sono difficili da ascoltare, perché pur sentendo fondo scala portante non trasmetto, lo tengo la frequenza occupata praticamente. A volte hanno anche il full duplex, no? Sempre attivo. Indubbiamente c'hanno vari sistemi, ma quelli lì più che altro sono di messaggistica e implementano tutti gli altri sistemi di comunicazione, sia terrestre sia satellitare e così via. Ma la voce, perlomeno in ambito militare, c'è, però è spesso sostituita proprio da varie comunicazioni scritte, anche perché quelle rimangono. Sicuramente sì, le stampano, fanno, sì. E sono cose belle, ce n'è tanto da vedere. Comunque sì, queste trasmissioni digitali che ci sono lì, intorno ai 10, da 10 a 100 GHz, sono veramente curiose, ce ne sono tante. Poi tra l'altro la cosa bella di questa stazione dell'università olandese, che tu stai muovendo il WFO, praticamente dove c'è il centratore del del punto di sintonia ti esce anche la scritta di che cosa stai ascoltando, capito? Quindi tu non senti solo dei suoni insignificanti, ma c'è un magari una cosa russa, quell'altro americano, quell'altro italiano della Sicilia, quell'altro una traduzione militare per i sommergibili dell'Olanda, quindi c'è proprio segnato tutto, manco fosse un libro, proprio fatto bene. Dann haben sie falsches Material gekauft. Sì, beh, una volta era, al posto di quello c'era quello famosissimo tedesco, non so se hai mai preso il libro o il CD, il Klingvang, non so il nome, com'era? Il Klingjew, allora è scritto Klingjen Fuss Utility Guide, una cosa, ho preso l'appento di classificare tutte le stazioni del pianeta, mamma mia, vabbè che c'era una stazione, non so se esiste ancora quello. E niente, il sito è larga banda web SDR, giusto? Sì, allora il sito è web sdr.org. Come vai lì? Ti svegli tutte le stazioni, è un sito che praticamente accoglie chi vuole condividere la sua stazione SDR. E la prima, la numero uno, è quella olandese. Poi ce ne sono tante molto valide, ce ne sono inglesi, ce n'è qualcuna italiana, ce ne sono tante, più o meno economiche, ma questa olandese dell'Università di Twente è veramente fatta bene, chissà quanta gente c'è dietro. È bella, cioè a volte preferisco di accendere questa cosa qua e spaziare. Per esempio te ne vai su 80 metri, senti gli americani, poi vedi che stazione hanno, guardate proprio il computer, vedi che c'è chi le sigle, vedi che cosa hanno, che cosa non hanno. Oppure le stazioni militari, digitali su 60 kHz, 70 kHz, e poi vai su Wikipedia e ti spiega tutto, ti dice questa è la stazione russa al giorno, quell'altra invece trasmette la notte, quindi se una attiva o non attiva l'altra, che si trova là. Cioè hai tutta una serie di informazioni, però vedi i segnali, quanto sono forti, quanto sono frequenti, da dove trasmettono, per chi trasmettono, perché ti dicono se è aeronautica, se è sottomarini, se sono appunto il Navtex, c'è cioè anche stazioni Navtex, con questa mini whip che c'è collegata in questa cosa qui, che poi ti fa vedere il progetto dell'antenna, ti fa vedere fotografata l'antenna spaccata, ti fa vedere l'SDR aperto, c'è molto testo anche, quindi ti spiega bene. Se sei appassionato, ingegnere, che ti piace progettare e fare queste cose, lì ti spiega per filo e per segno tutto, le modifiche che hanno fatto negli ultimi anni, però è una bella cosa, bella. E poi tra l'altro attiva, perché puoi usarlo, ascolti. E se c'è un OM che ti dice qua, sa, se sta provando in 80 metri, come se una nuova antenna, magari vai lì e non lo senti, te ne vai invece in Olanda con l'SDR e lo senti bene. Magari qua non c'è antenna, è tutto spiegato, però senti, è bello anche sentire l'estate, la vuoi sentire dall'America, te ne vai dall'SDR che si è in America e vedi come arriva quell'italiano lì. No, insomma le cose fatte, cioè col computer collegato, la radio collegata al computer sicuramente è più tridimensionale, dai, vedi più cose, oltre che ascoltare, vedi tanti punti di vista. Sì, non c'è un grado di dubbio. Sì, è vero che arriva fino a 5,19, anche più in basso. C'ha i filtri, c'ha tutto. E questa mi ricordo, non ricordo se era questa, ma penso che fosse questa, proprio perché non c'è da oggi, c'è da molti, molti anni. La utilizzavo a Vittorio per capire se arrivava lì. Metteva l'antenna, quella del 79, e vedeva un po' se lo sentivano. E controllava la stazione, diciamo così. Anche quello è un utilizzo utile. E poi al giorno d'oggi sa benissimo che con i nuovi sistemi digitali, soprattutto per VHF, UHF e così via, sono tutte tutte funzionanti sul network praticamente, quindi sono tutte collegate a internet o collegabili a internet, proprio per aumentarne sia la raggiovazione, sia la possibilità di multitrasmissione. L'esempio tipico sono le radio che hanno ad esempio la polizia, il Tetra, quello lì è un vero e proprio network, quindi possono coprire parecchi territori eccetera, dove non c'è il ripetitore si può accedere con altri sistemi network e cose del genere, ecco. No, di questo campo non so niente, non mi sono ancora documentato. 00. Sì, comunque scende più giù di 500, forse devi zoomare sulla scala, magari ti sei arrivato così e hai detto 500, forse anche di meno, proprio da dove nasce la frequenza, scende più in fondo, e i segnali sono ben separati, ben puliti, tira fuori il suo quanto. E poi se tu guardi bene sotto ti spiega anche che cos'è ogni segnale, che cos'è, che qual è l'ente che lo trasmette. Web che cosa sono. Poi un'altra cosa che mi è piaciuta, vabbè, io quando ascoltavo con i miei dipoli in 30 e in 40, dipoli bassi non risuonavano bene, sicuramente erano mezze cioffette. Non ascoltavo mai stazioni. Senti, qualsiasi cosa c'è negli 80. Guardi anche il grafico lì, come si chiama, se c'è il nome particolare, water, vabbè, vedi il display delle modulazioni, no? E sono tutte quante una a fianco all'altra, sembra la spiaggia dell'Emilia Romagna, con tutti gli ombrelloni, tutti fitti, non c'è uno spazio, se poi cerca una frequenza libera non è tutto, non trovi niente, perché tutto quanto una attaccata all'altra. Die 2 ist nur ganz klein. Die 7 groß, dann kommt ein Punkt, 075. Und jetzt sind so. Oh, ma questo tedesco sta sempre parlando, Si sente sotto, appena volle. Sì, beh, anche quello che è stato prima, un mondo affascinante, io me lo sto occupando oramai da parecchi anni delle tecnologie digitali come il DMR ad esempio, prima ho iniziato il D-Star, poi c'è anche il CF4 FM della IAISU, ma diciamo quello che primeggia è sicuramente il DMR, che è alla pari al Tetra, quindi sono tutte cose molto interessanti che ti permettono anche di renderti indipendente dalla schiavitù dei ripetitori, ecco. Perché c'è portate veramente notevoli, qualità di radio eccezionali. Certo sono apparati, perlomeno quelli a cui penso io, sempre di un costo notevole rispetto a quelli che vedi pubblicizzati a 80 euro, 90 euro. Per quel prezzo neanche l'antenna ti danno, ecco. Immagino, certo. È proprio così. Ascolta, invece per quanto riguarda gli analizzatori di antenna che ci sono adesso in commercio, ho visto che c'è una marca che ne sta facendo parecchi, adesso mi sfugge, cioè il computer spento perché con l'antenino qua la macchina si accende dentro la presa USB, tastiera, faccio un casino. Non mi ricordo la marca, la marca di questi analizzatori che vendono un po' tutti, ma come funzionano che tu sappia? Hai mai provato qualcosa? Cioè sono. Se ti stai costruendo un'antenna trovi tutto ciò che ti serve, oppure sono un po' così, un po' farlocchi. Cosa mi dici? Io avevo occhio e voce. C'è anche un altro segnale, non so. Noi siamo in FM per chi sta ascoltando, comunque. Ammesso che sia un locale. Quello lì, sì, io ce l'ho, ho la versione, o meglio ne ho avuto due, ho iniziato col 50 che arrivava fino a 50 MHz, che per l'HF ce l'avanzava, poi l'ho avanzato e ho preso quello che arrivava a 500 MHz, è un analizzatore spettro della Ring Expert, che è quello che puoi vedere, credo che si chiami A600. E ti devo dire che l'utilizzo fare certe cose, tipo i due dipoli che ho costruito per i multibanda, è assolutamente indispensabile. Quindi devi fare un'antenna verticale, devi controllarti il cavo se c'è qualche interruzione. E guarda, c'è un bel manuale che tra l'altro credo sia fatto da un radioamatore sardo, che ti dice anche come trovare l'interruzione del cavo, le varie giunzioni fatte male, e chi più ne ha più ne metta. Quindi sì, è una cosa assolutamente valida. Ce ne sono altrettanto validi che però sai, quello lì te lo metti in mano e lo porti. Quelli più economici sono delle scatolette che colleghi al computer, che funzionano ugualmente bene, però ti devi portare appresso un tablet oppure un computer portatile, ecco. Quindi sono un po' meno pratici per chi magari deve ritirare giù l'antenna, poi ritirarla su, tagliarne un pezzo, allungarla, insomma tutte quelle belle cose. Quindi sicuramente quello pratico è la Ring Expert, ecco. Molto meglio dell'MFG, perché la Ring Expert è tutto digitale, ha tantissime funzioni, insomma, di tutto e di più. Anche io penso come te, deve essere una cosa portatile. La parte che con PC se vai sul tetto un po' sola non vedi nulla. No, c'è una cosetta del genere. E comunque se funzionano più o meno, sono tutti simili, c'è la differenza dalle... Nel modello ci possono essere anche differenze su tipi di lettura che uno ha e l'altro no. Per esempio la reattanza induttiva e capacitiva te ne va. Eh beh, penso proprio di sì, se no è proprio lì il bello. Tutti i valori ohmici sono presenti nella, ma non solo, ma ti fa anche una cosa preziosa, è la scansione che tu puoi programmare in maniera precisa, puoi andare, che ne so, da 500 kHz fino a, credo che sia 18-20 MHz di escursione, di lì vedi tutto l'andamento dell'antenna e le eventuali frequenze di risonanza se stai facendo una multibanda, ecco. Quindi c'è un po' la situazione generale sotto controllo. Non fa altro, diciamo, che mandare una trasmissione di pochi milliwatt e di ricavarne poi tutti i parametri che sono utili alla costruzione del dipolo, della verticale o anche di qualche antenna di portatile, e vedi un po' tutto quanto. Sì, poi anche dal punto di vista ergonomico è abbastanza tenibile, anche se è uno schermo grandicello, però come hai detto tu, sul tetto può essere prezioso, meglio sempre legarlo perché anche è delicato, e quindi insomma va bene. Comunque io ripeto, sia in macchina per l'antenna della macchina eccetera, l'ho utilizzato proprio per affinare il tutto e ottenere il massimo ottenibile, perché ti dà tante informazioni e soprattutto tanti vari tipi di scansione. Poi se anche quello si può collegare al computer per trarre, per salvare, elaborare tutti i vari parametri che ti dà e che ottieni. Sono d'accordo, ho visto dei filmati dove qualcuno lo utilizzava e faceva vedere come andavano su YouTube, sembrano molto versatili rispetto a all'altro americano che c'è sempre stato prima, che sicuramente è un ottimo strumento, l'MFJ sì, è un ottimo strumento, però un po' barrasone. E poi questi hanno un bel display, ti fanno vedere tutto. Non lo prenderò perché è indispensabile, è una stazione, senza quella cosa lì non, cosa ti metti a fare? Controllare il CVR, anche le antenne già fatte devi sempre vedere tutto, no? Se regoli, regoli sì, ma cosa stai regolando? Uno vuole vedere l'efficienza, deve essere 100%. Avanti break. Ehi, ciao Michele, ciao, sei anche a Gianfranco, non so se ci sia qualcun altro, avanti. Ciao Robè, ben rientrato. Mi sa che fra poco vado io a carica, sono già le 9. Sì, sono in compagnia di Franco. Stiamo parlando un po' di antenne, di SDR, di queste cose qui. Sto illuminando sulla nuove tecnologie, nuove strumentazioni, perché sono rimasto un po' troppo dietro, anche se in questi due mesi qualcosa non è più. Non tutto trovi scritto. Dai, Fra. Sì, ciao Roberto, ben ascoltato. Sì, stavo parlando un po' di le famose chiavette che un po' tutti utilizzano, eccetera. Sì, io purtroppo ho avuto molto da fare e non ho neanche collaudato un'antenna che ho costruito proprio da applicare a un SDR. Che però mi sa che dovrò comprare, perché ho dei dubbi su quello che uso attualmente per la ricezione dell'IMASAT. Ci vorrà anche un amplificatore per quella banda, e l'antenna ce l'ho già, l'ho costruita, adesso la devo collaudare, vediamo un po' cosa si riuscirà ad ascoltare una volta puntata, ecco. Tutto lì. Avanti Roberto. Oh, ci sono questi qua che vanno a fondo scala, questi tedeschi in FM, micidiali. Mi coprono. No, non ti coprono, però voi siete più alti, però sono fortissimi, segnali fortissimi. Cosa volevo dire? No, vai meglio ad ascoltare il Mazzat tu. E così hai detto Gianfranco. Diciamo anche l'italiano, perché quello c'hanno uno di italiani, sì, siamo italiani, non so per quanto. Sì, lì Mazzat, che sono tutta una costellazione di satelliti ad uso navale di vario tipo, sia per le missioni AES, sia per le missioni in fonia, ma soprattutto bollettini, Navtex, eccetera, eccetera. Franco, mi sono dimenticato di chiedere se hai sentito il Q100, il vostro satellite geostazionario. Guarda, ti ho già detto prima che non ho potuto provare neanche l'antenna che ho costruito, perché ho dovuto anche rimettere mano a un'antenna HF, perché con i venti che tirano qua ogni tanto c'è qualcosa. Ho trovato anche qualche torre mezzo bruciacchiato, qualche scarica oppure forse qualche esagerazione come potenza, quindi insomma sono stato impegnato e quindi l'ho dovuto mettere da parte. Anche stamane diciamo ho utilizzato il coso lì, insomma, ti conosci, l'SDR con il multi-PSK per vedere se come andava. Ho visto che riesce ad andare abbastanza benino, quindi insomma richiede molto tempo e il tempo sa benissimo che spesso ce n'è poco, quindi devi aspettare i momenti propizi sempre per metterci mano. Sì, scusa se riprendo io Robè, se tu, no, io intendevo se l'hai ascoltato in rete, perché ovviamente cioè, devi avere tutto quanto. Allora, è geostazionario, è stato lanciato da Qatar, mi sembra, qualche rianimatore, qualche principe, penso, qualcosa del genere ho letto, e ci sono due stazioni SDR che lo rimandano, frequenza 10 GHz, uplink mi sembra che sia intorno ai 2000, usano tutti quanti una sorta di transverterino che vendono online, e per ricevere l'antenna, il disco classico per Sky con l'LNB, adesso non mi ricordo se è modificato, non mi ricordo cosa usavano per la ricezione, quindi riceve a 10 GHz e entri a 2000. Praticamente tutti i fondo scala, non devi seguire nulla, ci sono un sacco di italiani, francesi, spagnoli a tutte le ore. Come si chiama? il pezzo di globo che vede è vastissimo, essendo 36.000 km, essendo a 36.000 km praticamente vede mezzo globo, quindi entrano dal nord del Brasile, tutta l'Europa, l'Africa, il Medio Oriente, tutto il Nord America non me lo ricordo, però Nord Europa sicuramente. Segnali dei 9.10, 9.20, tutti quanti, non ce ne sono che arriva a basso, c'è un traffico bestiale. Vai Robè, dimmi tu se l'hai sentito. Comunque lì su quel sito websdr.org c'è una stazione di un radioamatore sardo che ha messo l'SDR su questo Q100 e poi c'è forse la stazione che non è lì pubblicizzata lì, ma sul web c'è la stazione del satellite che ha un'interfaccia simile e ti consente di andare ad ascoltare. Secondo me hanno fatto veramente una cosa molto bella, molto semplice, tra l'altro accessibile per tutti, con pochi soldi ti puoi fare la stazione, ovviamente avendo la licenza, e operare, è comodissima, perché non devi seguire nulla, portatilissimo, è tutto qua, vero Beh? Sì, è interessante, l'ho visto anche io, l'ho seguito. E l'immalfat tu cosa utilizzi per riceverlo? Con cosa lo ricevi, come si chiama? Gianfranco? È sempre una chiavetta che però causa probabilmente anche lì le scariche, mi dà l'impressione che sia sordo, perlomeno che sia partito il coso lì, l'amplificatore dell'antenna, però ripeto ancora primi test, questa era di primi test, ancora c'è un'antenna qua e andrebbe posizionata sopra sul tetto per vedere un po' le cose che succedono, e quindi serve, ora come ora serve ben poco, mentre invece è pienamente operativo sia il sistema navale di terra, quindi comportata. Guarda, ieri che c'era questa famigerata propagazione, vedevo tutte le coste spagnole, tutte le navi sulle coste spagnole, e anche ce n'era una in Africa. Perché grazie a questi strumenti ho capito che la mia, diciamo, il mio fascio direzionale di prevalenza è praticamente verso la Spagna, la Francia preferenziale. Con radar aereo invece, che lavora a 1090, riesco ad arrivare fino a largo di Genova, all'isola d'Elba e tutte quelle zone lì. Questo rimanendo sempre in ambiti di frequenze tra virgolette basse. Sì, ma quello che volevo dire, che antenna stai utilizzando? Non ho capito che antenna utilizzi tu per l'Inmarsat. Tu solo i dati, stai ricevendo solo dati, informazioni e dati. Brecche da Vicenza. Sì, no, ancora, ripeto, non ho piazzato il sistema. Prima vedevo le onde. Le tracce sullo spettroscopio però sì, riuscirò a riceverlo insieme anche agli altri satelliti che poi sono di altro tipo sull'altra banda, sulla banda bassa, anche a 200 mega che anche lì ce n'è. Lo sai perché ti sto facendo questa domanda? Io ho il telefonino satellitare, adesso non so neanche se sia operativo, lavora, siccome è bidirezionale quel satellite lì, puoi anche parlare se c'hai l'autorizzazione. È un vecchio telefonino acquistato da un amico che l'ha preso in Canada, lui lavorava sulle navi, grandi navi, eccetera, eccetera, andava in giro per il mondo, e me l'ha data a me, una valigetta, c'è il telefonino satellitare, c'è una scheda della tele, come si collegava al satellite Inmarsat. Proprio, ma stiamo parlando degli anni, all'inizio della telefonia satellitare, diciamo per usi normali, civili, stiamo parlando all'inizio degli anni 2000, dai, fine anni 90, inizio anni 2000, e c'ho ancora la scheda originale della tele, costava un sacco di soldi trasmettere telefonate ai satelliti. Anche da Vicenza. Sì, esatto, costava un pacco di soldi, quelle probabilmente erano ancora in tecnologia analogica. Adesso piano piano tutti i satelliti sono stati aggiornati e quindi hanno delle tecnologie digitali più sofisticate, proprio anche per impedire un intercettamento, che non è così complicato, ecco, considerato anche il costo di una chiavetta. Scusate, vi stavo ascoltando ma devo scappare per caricare batterie. Ci sentiamo più tardi o altrimenti domani penso di riuscire ad accendere qua la scatoletta. Bravo, mi ha fatto piacere Fra dopo tanti anni. 5 anni, anche forse qualcosetta di più, che non ci sentiamo. Anche se ogni tanto io ho uno scannerino, ogni tanto ascolto, ma non ti avevo più sentito, anche perché con il gommino qua non è che si faccia molto. Va bene, allora buon caricabatteria a voi, se dovete ci sentiamo prossimamente. Ciao Franco, ciao Roberto, alle prossime. Voi mi spiegate bene questa cosa dell'immersato, che non so cosa sia. Vabbè, ciao, vai Roberto. 2x9. Ciao Michele, sentito dalle prossime, dai, avremo modo di fare conversazioni più specificatamente tecniche, è interessante, io sono molto appassionato di ricezioni sia satellitari che in genere. Ok, vai Franco. Sì, ciao Michele, buona serata. Non mi hai mai sentito dove pensi tu, perché in realtà io trasmetto oramai solo in digitale, quindi trasmetto anche abbastanza spesso, però con sistemi di sperimentazione a grande distanza, quindi come ti stavo dicendo prima, collegati radio network, perché tutte le mie radio sono tutte transitabili tramite i flussi di rete, come tutte quelle professionali d'altronde. Tutto lì. Buona serata ancora, riprendi Roberto. Questo è spagnolo, arriva una bomba qua. Stavo dicendo una interrogazione, Gianfra, siccome stamattina ho avuto una interrogazione con Claudio, è passato, io un paio d'anni fa ho dato un'antenna parabolica, una Hirte a spicchi, un primo fuoco, proprio per fare ricezioni satellitari, esperimenti eccetera, ma non è che l'ho data a te, perché adesso non mi ricordo chi è venuto a prenderla, io non riesco a ricordarmi il nome, perché era una persona che aveva mandato Claudio, adesso prendendomi in mente, non sei tu sicuramente o cosa, dimmi. No, assolutamente no, perché tutte le antenne satellitari di norma le ho sempre costruite, sono parabole utilizzate per Sky eccetera, che si possono adattare anche per la ricezione di altri satelliti. E poi ripeto, una me la sono costruita il mese scorso in alluminio, quadrata, proprio tutta bella smossata, perché devi capirai a quale frequenze sbaglio uno spicchio e si rompe tutto. Però ancora è lì ferma, perché sono capitate tante cose, quindi il tempo è tiranno. Però guardate che non sono spagnolo, sono italiano, Vicenza, Nord Italia. Avanti Nord Italia. Ok, buona serata. Siete tra cordialità a parte mia. Stazione Giuseppe in Piede di Vicenza. Stavo ascoltando. No, Tutto duro io. Ui. Ok, buona serata, si rimette la microfonia a casa. Sì, riprendo io. Ciao Roberto da questa parte, la città è Sassari, nord della Sardegna, compagnia mia e di Gianfranco. Ti lancio Gianfranco, avanti Gianfranco, poi l'amico di Vicenza. Sì, io non so se mi ascolti, perché qua abbiamo i tedeschi che stanno facendo veramente oggi la loro giornata, stanno arrivando fortissimi, quindi ti sento, però se loro non parlano niente, siamo qua, stavamo parlando di alcune cose. Comunque il segnale credo sia intorno al 9, però ripeto, i tedeschi arrivano anche 9 spiccioli. Non so se mi hai ascoltato, qui Gianfranco da Sassari, ti rimando il micro, vediamo un po'. Io sono in questo locale qua con dei miei amici, che uno è che si chiama... Io ne sento 10 contemporaneamente. Che l'altro si chiama Angelo. Sì. E siamo questo canale è il momento della nostra zona. L'Italia, provincia di Vicenza, città di Vasagno, Rischio. Vasagno, a te che stato di capa. Sì, riprendo io, non ho capito il tuo nominativo. Eravati Roberto da questa parte?